Proseguendo la Halakha nel capitolo 30 del Kitzur, abbiamo iniziato con le norme relative al comportamento corretto in una società rispetto al discorso della Lashon Hara, della maldicenza, di parlare male, di parlare in certe maniere in generale. Ora passiamo ad un'altra mitzvah, che è un altro divieto sulla Torah. Il divieto di vendicarsi, che si chiama Nekamma. È scritto, leggiamo il testo e spieghiamo. Hanokem mechavero, colui che si vendica nei confronti di un'altra persona, cioè subisce un male e quindi si vendica, questo vendicarsi è un divieto negativo della Torah, ovvero belot aseh. Trasgredirebbe se lo facesse un precetto negativo della Torah. Ce ne è mar, come detto nel libro di Vaikra, nella parasha di Kedoshim, lo tikom, non vendicarti, non ti vendicherai. Ora facciamo l'esempio. Vekeitzad hi hanekima, in che modo, cosa si intende per vendetta? Per esempio, amar la chaverò, se uno dicesse all'altro, Hashileini kardumach, mi presti gentilmente la tua ascia? Ok, quindi stiamo parlando di cose banali, non stiamo parlando qualcuno mi ha preso con la macchina, una cosa semplice anche, mi presti per favore il cacciavite? Amarlo e inim hashilach, dice no, non te lo voglio dare. Ok? Ok, è andato a cercare da un altro. Le machar, l'indomani, l'indomani l'altro era in una condizione di dover chiedere un favore a me. E allora mi disse, amarlo, chaverò, ashileni kardumach, prestami tu la tua ascia. Amarlo, e lui risponde, einim ashilchak moshe atallo ishaltani, kasher shaltimcha. Io non te lo presto così come tu non me lo hai prestato quando io te l'avevo chiesto. Quindi il vendicare per la Torah è fare a lui quello che lui ha fatto a te. Si può fare. È vietato assolutamente dalla Torah. Harise no kem ve over belav. È la trasgressione infrange in un lav, cioè una mitzvah, una delle 365 mitzvot negative. Come si dovrebbe invece comportare? Ela, bensì, che se yavò lo lishol, quando quell'altro dovesse, qualora dovesse venire a chiedere quello che ti ha rifiutato a te, poi è venuto a chiedere a te, yiten belev shalem, bisogna dare con il tutto, cioè, il cuore. Direttamente la linea tagliata, ovviamente, nel senso. Bisogna darglielo con tutto il cuore, ve lo yigmollo ka asher gemallo, e non... letteralmente dare a lui quello che lui ha dato a te, ripagare lo stesso modello di comportamento che lui si è comportato nei tuoi confronti. È vietato che tu ti comporti nella stessa maniera nei suoi confronti. Ela raui lo la adam liot ma'avir al midotav, sarebbe opportuno che l'uomo si sforzi a dominare i propri tratti caratteriali naturali, midot, il proprio carattere, al kol divrei haolam, in qualsiasi circostanza, tutte le cose che possono capitare. Infatti, c'è etzel ha-mevinim, coloro che approfondiscono e comprendono un po' più profondamente le dinamiche della vita, si renderebbero conto che hakol divrei hevel vahavai, che tutti questi comportamenti sono vani e insignificanti. Se uno pensa vai a perderti in queste liti, in queste cose, è una stupidaggine. Bisogna approfondire e vedere che tutto questo è vano e insignificante. Allora questo rende più facile il dominare l'istinto umano, che è un istinto base. Se uno approfondisce e si mette a fuoco le cose più importanti della vita, allora riesce più facilmente a non entrare in questo tipo di peccato. veinan che dai l'incomalem. Non è, diciamo, non vale la pena, non è un motivo sufficiente per fare tutta un vendicarsi, eccetera. Vechen amar David Amelech alav shalom. E così troviamo che scrisse David Amelech nei salmi, nei teilim, im gamalti sholmi ra vachalza zoreri reikam. E David Amelech dice, o forse parla di quello che è suo, diciamo, merito. Ho forse ricambiato un torto a chi era in pace con me? Ecco, ho liberato quelli che mi hanno odiato senza motivo. Loro mi odiavano senza motivo, io comunque li ho liberati. Cioè, David HaMelech prega ad HaKadosh Baruch Hu di aiutarlo, invocando, ricordando i suoi meriti, che non si è vendicato contro altre persone. Allora, quando noi parliamo qui di questo divieto di vendicarsi, molti chiedono, però se qualcuno mi ha, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, bisogna capire che se una persona si trova in pericolo, è chiaro che si deve proteggere. O se qualcuno, e ne abbiamo anche parlato in passato, se una persona viene, diciamo così, presa di mira dal punto di vista commerciale o dal punto di vista materiale, fisico e quello che sia, è chiaro che a secondo delle leggi anche del posto una persona agisce per proteggersi, però non deve entrare in una dinamica di io faccio a te quello che tu hai fatto a me, o tu ti meriti questo. Sono due cose diverse: tutelare se stessi e vendicarsi contro qualcun altro. Però se il discorso è legato anche alla vita, e tanto da uno ritorna sempre al solito discorso, se mi voglio vendicare di qualcosa che mi è stato fatto pesantemente, hanno ucciso un genitore, hanno ucciso un figlio, allora lì per lì mi difendo e reagisco. E se la vendetta, che è il piatto famoso che va servito freddo, aspetto e mi vendico successivamente, è sbagliato? Se torno su... Aspetta, prima chiedi se è permesso vendicarsi, in questo caso. È quello che sto dicendo, non è permesso, ma come fai a... La domanda è, allora se uno dice hanno ucciso un mio caro, io mi vendico, allora non funziona così, dipende. Se stai in Italia ti devi rivolgere alle istituzioni, alle forze dell'ordine. Non, se loro vedessero che tu ti vendichi contro qualcuno che ha ucciso un tuo caro, mai sia, allora sarai tu messo sotto processo. Certo, quindi legale, è chiaro. Non stai seguendo la legge. Esiste un concetto nella Torah delle città rifugio, di qualcuno che uccide involontariamente, preterintenzionalmente, e che la famiglia ha il permesso di rincorrerlo, eventualmente vendicarsi. Ok, questo diciamo è più teoria che pratica. In pratica non funziona così. Cioè le persone per esempio che si sono vendicate dopo tanto, torniamo sempre alla seconda guerra mondiale, le persone che si sono vendicate successivamente alla guerra, ci sono stati dei gesti, degli atti cruenti da parte nostra nei confronti di, nel senso che è stata una vendetta, sì. Non sono giustificati? No, non dico questo assolutamente. No, sto chiedendo, nel senso come sono visti, perché quello è sempre un istinto, noi non siamo nel... Allora, se io fossi lì, non potrei e non posso adesso anche ma assolutamente giudicare una cosa così. Certo. Ok? Perché forse l'avrei fatto anch'io, voglio dire. Non è... Dall'altra parte, se noi parliamo teoricamente, non so se sarebbe stata la cosa giusta da fare. Perché? Perché ci sono delle leggi che gestiscono queste cose. Quindi se tu prendi la legge nelle tue mani, non è più legge, in un certo senso è quello che hanno fatto loro, hanno preso la legge nelle loro mani. Certo. Ok, allora è difficile, è una questione difficile, ma è chiaro che non si può giudicare una situazione così, sicuramente non a cose fatte, no? Se fosse una situazione dove uno vedeva, se loro dovevano uccidere qualcuno per salvare qualcun altro. E quello è un altro discorso. Se viene ucciso, che ne so, una SS e quindi... qualche ebreo non sarà ucciso, allora è però chiaro, quando siamo nel mezzo della guerra, nel mezzo del discorso. Infatti, cioè, uccidi chi vuole. Sì, assolutamente, quello è proteggere la vita. Però nel caso fosse già finito tutto, e questo non lo so, anche perché la cosa è soggettiva, perché anche dopo che era finita la guerra c'erano delle situazioni dove ebrei erano stati uccisi, in Polonia c'erano dei pogrom dopo la guerra. Sì. Allora può darsi che facevano bene, quindi dipende dalla situazione ed è impossibile, credo che sia impossibile giudicare quelle situazioni specifiche. Però credo che c'è un altro punto qui molto importante, che è quando noi parliamo qui in questo contesto di vendicarsi, abbiamo fatto un esempio estremamente banale. Parliamo di vita Ecco, giornaliera, allora qual è il rischio? vita comune. Il rischio è di pensare a situazioni e parlare di situazioni di estrema importanza come quella che tu hai citato e altre cose simili, molto pesanti, molto forti, di grande importanza, appunto. E quindi di prescindere dalle situazioni più comuni e più quotidiane che possono capitare tutti i giorni, però uno dà nella propria mente, per natura, uno dà meno importanza a quelle cose. Giusto. Invece quello che la Halakha ci sta insegnando è il contrario, non che quelle altre sono meno importanti, ma che anche queste sono importanti, diciamo così, tra virgolette, quasi quanto quelle altre. Quindi anche le situazioni banali dove a scuola il compagno non ti ha imprestato ieri la matita e tu Sarà oggi colpa tua. non gli presti la penna, entra in un divieto della Torah. E questo è l'esempio che abbiamo fatto, un esempio banalissimo. No, perché te lo meriti. Ok, te lo meriti, ma questo è contro quello che dice la Torah. Cioè, è molto. O quello che ti taglia la strada con la macchina e tu gli tagli al semaforo. Ragazzi, stiamo parlando di situazioni di vita quotidiane comunissime, che capitano tutti i Perché giorni, devo rivedere alcuni comportamenti no? miei? E allora ecco perché dico, la Halakha parla a noi nel senso più semplice, perché Chiaro. dico questo perché, non per la tua domanda, ma perché in generale c'è un atteggiamento, esiste un atteggiamento di parlare di ebraismo sempre su una sfera molto elevata, molto culturale elevata, teorica. L'ebraismo non è solo questo, anzi, halakha è proprio la vita comune, quotidiana, Quotidiana. semplice. La persona diventa una persona migliore non quando approfondisce e teorizza su cose astratte, ma quando prende cose pratiche e nel più pragmatico Pratica. possibile applica un comportamento idoneo. Mi fa una piega. Questa è una cosa molto di base in generale nell'insegnamento della Torah e soprattutto l'aspetto della Torah che è questa che è la Halakha, che si rischia in certi ambiti, in certi ambienti, di prescindere completamente dalla vita pratica della Torah e andare sempre a parlare cose. Faccio autocritica, è vero? No, No, no, è no, stato. c'era No, Leo, sì. il mispatema. No, noi Sì? abbiamo studiato due regole, quelle dell'animale del nemico, poi chiamato nemico tra virgolette, dove tu praticamente non ti devi esimere sia da aiutare l'animale che è sovraccarico, ma soprattutto poi se l'animale sta in difficoltà tu lo devi. Assolutamente, sì, la mitzvah di aiutare l'animale in difficoltà, Sì, che sì, quindi. poi secondo me, almeno da come l'ho letto io, tu poi alla fine aiuti anche prima il nemico rispetto all'animale stesso, perché se c'è rispetto all'animale che è sovraccarico, rispetto a quello che sta proprio in difficoltà, tu se l'animale, cioè almeno così ho letto la regola, se l'animale che prende sta in difficoltà, sta sovraccarico, è del nemico rispetto all'animale che sta, diciamo, accasciato a terra, Sì. che è di una persona amica, tu lo fai sempre dall'animale che è del nemico, cioè, non so se mi Sì, sono devi spiegato. aiutare e dare priorità anche al problema del nemico, di quello che non ci vuoi parlare, rispetto a così, sono tutte cose che la Torah ci insegna di andare contro la nostra natura, di domare l'istinto umano e con questo diventare persone più elevate, di pensare più a cose importanti rispetto a cose banali, eccetera. Ok? Ora, nel prossimo paragrafo continuiamo a parlare di questa idea di migliorare i propri tratti caratteriali e dice così: Im tirzelin hakem me oyevecha. Se una persona gli viene la voglia, che è la voglia naturale, di vendicarsi contro i propri nemici, tosif ma'alot tovot. Invece di fare questo, cerca di migliorare le tue qualità positive, di aumentare altre qualità positive, vetelech bedarkei yesharim, e mantenere un comportamento corretto, yashar, retto. Ubazem mimeile, in questo modo automaticamente tinakem misonecha, sarà un vendicarsi contro i suoi nemici, ki hu yitzta'er al midotecha, il nemico si tormenterà per le tue qualità buone. Quando un nemico si trova davanti a qualcuno che non gioca il suo stesso gioco, cioè se quello lì che ti ha detto no, io la mia ascia non te la do, il mio cacciavite non te lo do, e tu il giorno dopo lui ha bisogno e viene così con la coda tra le gambe e dice senti, ce l'hai una lampadina che mi si è fulminata, e tu con un sorriso gli dici certo, ecco, prendi la lampadina, quello si mangia il cuore. Quindi se tu vuoi, in un certo senso ti sei vendicato contro di lui in maniera ancora più forte che se non tu avessi detto no, guarda che io... No, fai lo stesso gioco suo e lui gli piace quel ballo lì. Invece quando non giochi quel gioco e tu cerchi di migliorare te stesso, vai contro natura e col sorriso glielo dai, anche lui sta male da questa cosa, non è che sta bene. Ve'itabel be'shomo shimcha tov. E sarà triste venendo a sapere della buona reputazione che tu hai, che tu hai potuto sostenere. Avalim ta'ase ma'asim mechoarim, ma se ti comporterai in maniera deplorevole, asis machsonacha, allora il tuo nemico sarà contento, al klonecha vecherpatcha, al tuo disonore, alla tua vergogna. Vinehumit nakembecha, a quel punto è lui che si vendica contro di te. Tu impari di suoi comportamenti e ti comporti male e la gente inizia a parlare di te come uno che ha un modo deplorevole, un comportamento non positivo, allora è la migliore cosa per il tuo nemico che gioisce della tua caduta, del tuo inciampo. Al contrario, quando tu migliori le tue maniere, quando tu aggiungi, aumenti il tuo, diciamo, il bene nei propri tratti caratteriali, allora questo è, tra virgolette, questo è un vendicarsi permesso, diciamo così. Questo è per ciò che riguarda il vendicarsi. Ora si conclude questo capitolo con un ulteriore divieto, che è netirà. Netirà è portare rancore. Vediamo un po'. Kol hanoter le chad mi Israel, chiunque porta rancore nei confronti di un altro ebreo, over belota a sé, trasgredisce appunto una mitzvah negativa, ce ne è mar, come detto, veloti tor, nello stesso versetto di cui abbiamo citato prima per la nekimai, cioè il vendicarsi, è scritta anche quest'altra infrazione, quest'altro divieto, che è veloti tor et bene amecha, non porterai rancore ai figli del tuo popolo. Cosa è il rancore? Cosa si intende per netirà? Facciamo di nuovo un esempio molto pratico. Keitzad hi ha netirà. Come si esprime, per esempio, questo rancore? Reuven sheamar le Shimon. Se ci fosse uno che chiamiamo, per esempio, Reuven, che dicesse a uno che chiamiamo, per esempio, Shimon, Hashileni davar peloni, prestami per favore tale cosa. Velora tza Shimon. E Shimon ha detto no, non voglio, non posso, quello che è. Leyamim. Passa un po' di tempo, va Shimon, arriva Shimon, che aveva rifiutato di aiutare Reuven, li sciolle ise chefetz mi Reuven, e ora chiede in prestito qualcosa di Reuven. Senti Reuven, che c'è un cacciavite, mi serve. Amarlo Reuven, disse Reuven, elcha, eccoti il cacciavite, hareini mashilcha, io te lo impresto, ve eini che motcha, io non sono come te. Lo ashalem lecha che masecha, io non farò quello che tu hai fatto a me, io non lo farò a te. Cosa ha fatto questa persona? Ha tenuto e ha ricordato il male dell'altro, questo si chiama netirà ed è vietato. Haose kaze, chi si comporta così, over belotitor, trasgredisce il divieto di tenere rancore, portare rancore. Invece, come si dovrebbe comportare? Ela yimchea davar milibo. Bensì, dovrebbe la persona cancellare l'episodio, il comportamento dell'altro, dal proprio pensiero, dal proprio cuore, velo yizkerenu klal, e non lo faccia più ricordare per niente. Che questo forse è ancora più difficile dell'altro. Dice, non vendicarti, tu dagli sì quella cosa in prestito. Ok, gliela do, però io glielo ricordo quello che lui è la cosa più naturale. E si sente tutti i giorni. Senti, tu ti ricordi che io invece... Vietato. Non tenere questo rancore nel cuore. Vezohi adea nechona. E questo è un comportamento, è un tratto caratteriale giusto e corretto. Shefshar sheit kayemba yeshuva aretz, che contribuisce alla possibilità di avere una pacifica convivenza. Yeshuva aretz significa una vita civile tra le persone, un masa'am, un matanam shel bnei adam ze im ze, e i buoni rapporti della gente gli uni con gli altri tra di loro. E cioè, quando noi ci comportiamo in questa maniera, non è solamente che tu dici, ecco che ho fatto una mitzvah, cioè qualcosa di spirituale, di mistico. No, è questo tipo di comportamento, l'idea di andare oltre l'istinto naturale, non solo quando non si ha ragione, anche quando si ha ragione. Qui stiamo parlando di casi dove nessuno dice che non hai ragione. Hai assolutamente ragione. È proprio lì che diciamo, vai oltre, migliora la tua persona. Questo è ciò che contribuisce ad una società in cui è piacevole vivere. Invece il guardare sempre i propri interessi, il non dimenticare mai un male che sia stato fatto a sé, eccetera eccetera, questo contribuisce invece a un marcire del collante della società, ed è una cosa che alla fine non ha un buon esito. E quando quindi ci si comporta così, in un certo senso una persona si autodistrugge, tra virgolette, o almeno in quel momento sente di farsi un male, perché io devo dimenticare quello che lui mi ha fatto, io devo guardare oltre, eccetera. In realtà contribuisce a creare una società. Ma tra l'altro sembrano anche regole che sono fatte per star meglio con noi stessi. Esattamente. A parte nel fare bene agli altri, ma principalmente per star bene con noi, perché porti rancore, stai male. Comunque non esattamente. Che sa bene che è sereno. C'hai il male dentro, non sei sereno, bravissimo. Anche te stesso sei molto più sereno quando guardi oltre queste cose.